Unilibera presenta Lucciole nelle tenebre. Buongiorno, benvenuti a Lucciole nelle tenebre, il programma del Presidio Universitario di Libera. Buongiorno Tania. Buongiorno Jacopo. Di cosa parliamo oggi? Oggi vi parleremo dell'inquinamento ambientale e le malattie legate all'amianto. Sì, questa infatti è l'ultima delle tre puntate dedicate al caso Eternit di Casale Monferrato e prenderemo anche questa volta la città di Casale come spunto per parlare di questo problema, perché è qui che appunto è stata attiva per lungo tempo una fabbrica di Eternit, come saprete se avete seguito le scorse puntate. A Casale infatti l'inquinamento ambientale ha raggiunto vette sconcertanti. Per esempio, se confrontiamo la situazione dell'inquinamento di Casale, prendendo come termine di paragone il modello di Roma, che è una città piuttosto inquinata, lo sappiamo, almeno ci sono due importanti differenze da evidenziare. La prima è che Casale ha una percentuale piuttosto alta di fibre di amianto anfibolico, il 23% circa. E poi possiamo notare che le punte massime di concentrazione di fibre aerodisperse sono 4-5 volte maggiori a Casale piuttosto che a Roma. Durante i primi anni 70 l'amianto è stato soprattutto utilizzato dai paesi industrializzati. I due principali produttori erano Cina e Russia. In Europa il mercato è ormai praticamente inesistente, con la sola eccezione della Russia, le cui autorità ufficiali continuano a negare la gravità dei danni dell'amianto sulla salute. Un caso ambiguo si verifica oltreoceano. Il Canada, fino al 1975, è stato il primo produttore mondiale di amianto, ma la sua produzione è calata inevitabilmente di fronte alla scomparsa del mercato statunitense. Tuttavia, il Canada è ancora promotore di una crociata mondiale pro amianto. Il paese non lo utilizza quasi per niente, ma le esportazioni sono incentivate. Al 2010 i maggiori produttori di amianto risultavano essere Russia, Cina, Kazakistan, Brasile, Canada, Colombia e Zimbabwe. Oggi la Federazione Russa e l'Asia, India in primis, rappresentano insieme oltre l'85% del consumo mondiale del minerale. Il flusso del commercio e dell'utilizzo di amianto si è spostato dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo, con tutti i pericoli per i lavoratori e i cittadini di questi paesi. Pensiamo alle condizioni della sicurezza sul lavoro e alle condizioni sociali di gran parte della popolazione. Infatti, l'Organizzazione Mondiale della Sanità rileva che attualmente siano 125 milioni i lavoratori nel mondo a contatto con l'amianto. Inutile parlare delle azioni di lobbying delle multinazionali produttrici sui governi e le campagne, vere e proprie strategie di informazione sulla lavorazione e l'uso sicuro dell'amianto. Questo ci fa capire che la permanenza della lavorazione e dell'uso dell'amianto è visceralmente intrecciata a strategie economiche ipercapitaliste, tese scientificamente al massimo guadagno a discapito dei diritti base dell'uomo e del lavoratore. Ciò pone una riflessione importante sul ruolo dei sindacati a livello mondiale e di come finora sia risultata inefficace un'azione coordinata, se mai ci fosse stata, di aiuto alle classi dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo. Ecco, ma qual è la situazione in Italia? In Italia c'è una legge del marzo del 92, la numero 257, che bandisce ogni forma di produzione, importazione, esportazione e commercio di materiali contenenti amianto. Il problema però rimane. Si deve tenere conto che le malattie legate all'asbesto scompariranno solo una cinquantina di anni dopo il momento in cui il nostro ambiente sarà completamente liberato dalla presenza di amianto. Il problema principale per il nostro paese, dunque, è oggi quello dello smaltimento e della bonifica. L'amianto, infatti, è ancora installato in edifici, impianti, anche in matrice friabile, che è quindi ancora più pericolosa poi da maneggiare. Per esempio, secondo un'inchiesta giornalistica del 2010, sono circa 400.000 gli studenti italiani a contatto con l'amianto contenuto nelle loro scuole, ossia sarebbe da bonificare ancora il 5% degli istituti scolastici. I rifiuti di cemento amianto vanno poi smaltiti in siti appositi che allo stato attuale non sono disponibili a sufficienza. La tendenza è quindi quella di un'esportazione in altri paesi di questo tipo di rifiuti e qui sappiamo quanto facilmente e diffusamente il controllo del ciclo dei rifiuti, specie quando si tratta di rifiuti speciali, sia in mano mafiosa. A livello europeo si è arrivati a bandire definitivamente l'uso, la lavorazione e il commercio di amianto solo nel 99, Mentre per quanto riguarda i lavoratori c'è l'ultima direttiva del 2009, entrata in vigore poi nel 2010, che appunto riguarda la protezione di chi lavora a contatto con l'amianto, quindi principalmente chi si occupa dello smaltimento e della bonifica. Adesso direi che ci ascoltiamo la canzone di un cantante casalese che si chiama Giubonski, che parla proprio di questa vicenda Eternit. La canzone si intitola Pattume. Neanche la nebbia potrà celare questo dolore, questo tormento. Sarà la rabbia triste che sale, o questo senso d'estraniamento, quel vostro sterco, quel vostro odore penetra lungo negli orifizi, polvere grigio che ha cancellato giovani e vecchi, stessi supplizi. Con che coraggio, con che criterio comprate l'anima di un conflitto, senza vergogna, senza ragione, di un sentimento preso in affitto? Non lo sentite questo rumore, questo vociare, questo schiamazzo? Sono le grida dei nostri cari per quella matta pescata nel mazzo. Mescola carte, mescola umori, mescola piano, mescola forte. Tanto a quel gioco che avete imposto avremo tutti identica morte, ma noi la spugna non la gettiamo. Fateli bene quei vostri conti, non ci pieghiamo al vostro destino. Cuori e polmoni saranno pronti, ma sì, vendete la nostra vita. Fateci a pezzi, saremo in tanti, per ogni scampolo fresco di pelle. Faremo guerra dai camposanti, sopra ogni tomba ci sarà un fiore. Sarà innaffiata dal grande fiume, saranno rose rosse d'amore. E voi tenetevi il vostro pattume, il vostro pattume. Assassini in doppio petto, assassini in doppio petto. Quando certe cose accadono non si è mai pronti. Anche se ne hai visti tanti, tra parenti, amici e conoscenti, ammalarsi prima di te, pensi che non è possibile che ti sia toccata la stessa sorte. Per quanto mi sforzassi di ricacciare indietro i pensieri più brutti, dovetti tuttavia fare presto i conti con la cruda realtà. Mi ero svegliato una mattina di febbraio del 2006 con un tremendo mal di schiena, una fitta che si propagava fin sotto la scapola sinistra. Provai con degli antinfiammatori, ma non riuscii a farmi passare il dolore. Mi ricordai allora di un'operazione a cui mi ero sottoposta da bambina per correggere una scoliosi. Pensai che potesse trattarsi dei postumi di quel problema. Andai avanti per un po' di tempo così, cercando di non prendere in considerazione le ipotesi più preoccupanti avanzate dai medici, fino a che, a maggio, dovetti arrendermi all'evidenza dei fatti. Una semplice radiografia mise in risalto una macchia nei polmoni, che a una prima visione degli analisti sembrò essere un ispessimento della pleura. Subito dopo, una biopsia confermò la prima impressione. Mesotelioma pleurico. Sono 4 anni che mi domando come posso essermi presa questa terribile malattia. All'Eternit non ho mai lavorato, ma questo non significa niente. L'inquinamento ambientale a Casale ha toccato il suo punto più alto negli anni 50-60, quando io ero piccola. Bisogna tener conto che per decenni, fino alla chiusura della fabbrica nell'86, la polvere d'amianto che fuoriusciva dall'Eternit si disperdeva per tutta la città. Come se ciò non bastasse, la diffusione dell'asbesto è avvenuta per lunghissimo tempo anche attraverso il trasporto del minerale, che era prevalentemente di importazione, che i camion effettuavano, senza misure di protezione e con i cassoni aperti, dalla stazione all'impianto. Ricordo che i davanzali delle finestre di casa mia ogni mattina si riempivano di polvere bianca. I suoi enormi cumuli di quei residui avvelenati, depositati nel nostro cortile, in quanto materiale buono per farci il sottofondo o per coibentare, io e mia sorella giocavamo spensierate quando eravamo libere dagli impegni scolastici. È stato sicuramente allora che ho contratto la malattia, che ha un periodo di incubazione lungo fino a varie decine di anni. Senza contare che mio padre, che ha fatto per 35 anni l'operaio all'Eternit, è morto nel 1990 di infarto, sopravvenuto come con causa dell'asbestosi che si era preso lavorando a contatto con l'amianto. Lui, come tutti i suoi colleghi, era solito portare a casa i suoi abiti di lavoro. Non posso pertanto nemmeno escludere che il contagio sia avvenuto all'interno delle mura domestiche, a causa della polvere contenuta in quegli abiti. Ecco, questa che abbiamo sentito è la prima parte della testimonianza di Luisa Minazzi, che è poi morta nel 2010 per mesotelioma pleurico. È una personalità piuttosto nota a Casale, era dirigente scolastica. E, insomma, abbiamo voluto leggerla per addentrarci in questa seconda parte della questione, che è quella appunto legata alle malattie. L'asbestosi è una malattia respiratoria cronica che provoca fibrosi del tessuto polmonare. Le fibre penetrano nei polmoni fino ad arrivare agli alveoli polmonari. La quantità di asbesto che resta intrappolata nei polmoni è legata alla quantità totale di asbesto inalato e dunque all'intensità e alla durata dell'esposizione. L'asbestosi è pertanto una malattia in cui esiste una stretta correlazione fra dose di asbesto inalata e risposta dell'organismo, quindi tipica di un'esposizione professionale. Un'altra malattia purtroppo piuttosto diffusa è il mesotelioma pleurico, che colpisce appunto la pleura o il peritoneo, ed è tipica dell'esposizione ad amianto, perché qui non c'è proprio dubbio che questo tumore può sorgere solo quando si è stati in qualche modo a contatto con quella fibra così particolarmente sottile. Per esempio, dal processo una delle cose più agghiaccianti emerse sono i dati sull'incidenza del mesotelioma nel 2011 a Casale. A novembre 2011, si dice, abbiamo già raggiunto 47 nuovi casi e tutto lascia prevedere che anche quest'anno verrà superata la soglia dei 50 nuovi ammalati. E questa progressione continuerà per almeno altri 10-15 anni fino a raggiungere il picco. Ma poi non è che la malattia si fermerà o regredirà, semplicemente si stabilizzerà per un'altra ventina di anni attorno ai 50 nuovi mesoteliomi annui. Non esiste probabilmente un casalese che non abbia perso almeno un parente a causa di questa malattia. E adesso ci ascoltiamo una canzone tratta dall'ultimo album di Samuele Bersani, Chiamami Napoleone. Chiamami Napoleone, chiama anche Cesare se vuoi, chiama chi ti pare. Non c'è più niente qui da conquistare, che non ci siamo presi già. Chiamami Morricone, chiamami Mozart e se sente chiama Beethoven. Non c'è più niente qui da musicare, a parte un disco dei Moda. Chiama anche Dio, digli che io gli ho chiesto un favore alla volta e lo prego a modo mio. Chissà se lui se lo ricorda. Chiama anche me, ciao come stai? Avrei molte domande da farti ma non le faccio mai. Non voglio che tu mi risponda. Chiamami la cardinale, chiama Monica Vitti e chiama chi sa invecchiare tranquillamente qui di naturale. C'è solo il tonno in scatola. Chiamami Sergio Leone, chiama Fellini anche se sogna lo puoi svegliare. Non c'è più niente qui questo stivale ridotto a pantofola. Richiama Dio, digli così, mi aspettavo un messaggio privato e lo aspetto ancora qui. Chissà se lui mi avrà in memoria. Chiama anche me, ciao come stai? ho trovato occupato e ho pensato non ci parliamo mai, ma questa è un'altra storia. Al nostro Buffie. Eccola qua, la nostra sigla preferita per i Buffie. Ci scusiamo tra l'altro di aver trascurato in queste puntate la nostra rubrica settimanale. Per farci perdonare, questa volta faremo un Buffie un pochino più approfondito e un pochino più lungo. Cominciamo. Hai tutto quello che vuoi, conosco quel che fare. Una ragazza come te, che sono un poco di buono, lasciami in pace perché... Gli piace facendo i voti, e così non si sta con noi. Oh, chiamavano la ruspa. Lo cantiere Costanzo mi ha rubato quattro pare che ci avesse. Oh, e organizziamo campionato mondiale! Sì, sono casa, su casa! Su casa, su casa, su casa e su casa. In questo progetto di danze c'è anche un bar. Mi sono occupato da famiglie bisognose e da mafiosi. Quella che avete appena sentito è la voce di Luciano Bruno, un ragazzo catanese che scrive e collabora con la rivista I Siciliani, ormai piuttosto nota anche nella nostra zona del bolognese. La registrazione è presa da un video che potete trovare facilmente su YouTube cercando Librino Monologo Teatrale. Si tratta appunto del monologo ideato da Luciano stesso e rappresentato qualche tempo fa a Librino, questo quartiere di Catania, che è completamente e palesemente sotto il controllo mafioso. Luciano sceglie di parlare ai suoi concittadini a voce alta, addirittura in uno spettacolo, di quella che è la situazione del quartiere, una situazione che è sotto gli occhi di tutti ma di cui nessuno parla. Sapete come funziona l'omertà, è la complice migliore per i mafiosi. Un monologo teatrale, insomma, in piena regola. C'è la regia di Orazio Condorelli, la sceneggiatura di Giuseppe Scatà e l'idea appunto di Luciano Bruno, che neanche l'interprete. Un esempio di teatro popolare che va in scena nella palestra di una scuola. Anche questo ha dato fastidio, anzi, forse ha dato persino più fastidio di quanto non ne faccia di solito un articolo di giornale, perché tanto, in fondo, i giornali, chi li legge? A uno spettacolo nella palestra della scuola la gente ci va e riflette. Da due anni a mia, che mi poteva succedere? Tanto io ho fatto un po' di papà, ma mi ha detto in realtà, Lino di Colò, Salvando e Azzaro, si è ristavaglia da amici so, io non faccio un uomo, lei, non faccio un uomo, mai vivendo, detto a me lo Costanzo, poco di vino. Tagliato, Pigno, tagliato, San Giorgio, tagliato, Oliveti, tagliato. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. La mattina del 10 gennaio di quest'anno, Luciano Bruno è stato minacciato e picchiato proprio in quel quartiere di Librino, il suo, mentre stava scattando delle foto al Palazzo di Cemento. È stato circondato da 6 uomini, minacciato con un'arma e picchiato. Gli hanno rotto un dente, hanno fatto i nomi dei suoi familiari, su cui sembravano molto ben informati. Nel monologo Luciano Bruno mette in scena la storia di Lucianeddu, la sua, ma questo non è più spettacolo. Lo spettacolo di Luciano è molto bello, ma non vogliamo che diventi spettacolo Luciano stesso, ci ha detto al telefono Riccardo Orioles, altro collaboratore dei Siciliani. Non vogliamo fare spettacolo, certo, ma solo portare in primo piano questo episodio. Fare antimafia significa innanzitutto non essere complici di quella rete di omertà. Non solo per dimostrare solidarietà a Luciano, ma anche per parlare e vigilare proprio su quel quartiere, Librino, e sulla drammatica situazione in cui si trova. Nella lettera che i siciliani giovani, insieme a Libera e ad altre associazioni vicine all'antimafia, hanno inviato al sindaco Enzo Bianco, si legge: «Siamo convinti che l'aggressione subita da Luciano è in realtà rivolta a tutta la cittadinanza. Quell'atto di violenza significa che alcune zone della città fuoriescono dalla sovranità dello Stato e che il controllo del territorio economico e sociale è nelle mani delle famiglie mafiose. È capitato a Luciano, poteva capitare a qualsiasi altro che avesse voluto fotografare i luoghi del degrado e dell'abbandono, a Librino o in qualunque altro quartiere popolare di Catania. Oggi però non basta più la solidarietà, molte volte di facciata, delle istituzioni. La responsabilità del dente spezzato a Luciano, così come della morte del piccolo Peppe Consulo e dei sedicenni indotti a spacciare, è da imputare a una presenza deficitaria delle istituzioni, alla quale supplisce sempre più incisivamente l'intervento della mafia. Il Palazzo di Cemento è l'esempio più chiaro. Enorme base di spaccio che vede arruolati decine e decine di giovani con poche prospettive e utilizzati come manovalanza mafiosa». E prosegue: «Questa situazione a Librino e negli altri quartieri popolari può sconfiggersi solo con una seria antimafia sociale, con asili nido e scuole, con eserciti di maestri e professori che invadano i quartieri popolari, combattendo la fuga scolastica. A questa deve però accompagnarsi una decisa antimafia istituzionale che appoggi e supporti tutti i percorsi di legalità in questi quartieri, da sempre numerosi e che hanno rappresentato nel corso degli anni unici baluardi di socialità. È intollerabile, infatti, che in un quartiere di 70.000 abitanti esistano ben 3 parrocchie, ma neanche una scuola superiore. Chiediamo in sintesi allo Stato di tornare a essere Stato, facendosi prossimo al quartiere, con strutture pubbliche, con servizi sociali territoriali, con una visione di promozione e non di repressione». E a questo punto della lettera segue una serie di quelle che sono le criticità del quartiere che andrebbero immediatamente risolte. L'ultimo punto contiene la richiesta di mettere a disposizione un teatro comunale perché Luciano possa portare in scena il suo spettacolo. La lettera si conclude così: «Noi associazioni catanesi siamo coscienti che i problemi di Librino non si limitino certamente a quelli esposti, siamo però convinti che la gravità della situazione sociale, esemplificata dal vile pestaggio di Luciano Bruno, imponga alle autorità l'obbligo di dare un immediato segnale di cambiamento a partire da queste richieste». Noi, naturalmente, per quello che possiamo nel nostro piccolo di presidio universitario, ci uniamo a queste richieste e all'auspicio e chiaramente alla solidarietà per Luciano. Tutti i sbagli capiscono, Tanci, ADC, Lo Giudice, Scavagnini, Bianco, Avaglianti, A Morti Puttana, I Genci, Giù, Supermercati, Giù, gli è tutti chi ci vuole. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We'd drive out of this valley down to where the fields were green. We'd go down. Io da bambino che facevo? Allora, che fa? C'è il mio sulla collina, che è stato il mio corpo. A me non è niente. Dai, dai, che bello di venire di sera, allora, dai. Beh ragazzi, purtroppo è finita qua. È finita, sono le nostre ultime registrazioni radio. È stata una bella, molto bella esperienza. Molto bella anche per me. Ringrazio Jacopo. Tutti, la Tania, la Flavia. La nostra tecnica. Esatto. E nulla, vi invitiamo però a risintonizzarvi puntuali come ogni venerdì a Luna su Radio Città Fujiko per le prossime puntate di Lucciole nelle Tenebre. Stavolta saranno condotte per il mese di febbraio da un trio di conduttrici tutto al femminile, Ilaria, Valentina ed Eleonora, che appunto ci intratterranno parlandoci di libri e mafia. Con questo vi salutiamo di cuore e vi lasciamo con una canzone di Bruce che avete già sentito nei video con Luciano Bruno, The River. Sends me